trivellazione sonora finché dura fa figura, ma senti che fregatura. Trivellazione sonora finché dura fa figura, ma senti che fregatura. Senti che figura di merda, manco sto qui a pensare alle parole da dire. Mi impiccio pure, cosa vuoi, faccio il freestyle, per tutto il resto si dà che già lo sai. Il DJ scrive la forza, questa roba da campo animato, su un lunga strefinito, un uomo che dice per tutti, non è vivo per nessuno. Sì, proviamo l'anima sul fatto che la cosa più bella che posso fare, cosa vuoi criticare, questa roba ti manda subito a cagare. E allora senti quanto brutto, tutto quanto me lo faccio sempre di brutto, perché il nostro senza compromessi, questa grandissima musica per forsi, e faccio rumore al nostro, tranquilli a tutti, non sono fiori e rose, queste rime le ho sentite mille volte, adesso continuo anche se sono tolte.